Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. È l'ultima trasmissione della stagione, dopo chiudiamo la 12ª stagione. Ringraziamo Giovanni Marri che ha condotto la regia di oggi, insieme a tutti gli altri amici che ci hanno favorito facendoci la regia nei giorni precedenti. Il paese va come va, ci prepariamo ad un referendum, fra cui anche un referendum a cui avevamo già votato e se ne sono bellamente fregati. D'altronde mi sembra che se ormai abbiamo capito che se il popolo esprime un'opinione, questo è del tutto indifferente, irrilevante per coloro che ci governa, come diceva Carlo stamattina. Quello che fanno gli eserciti in Somalia ieri più o meno sarà quello che faranno in Albania oggi, immagino. Le cronache arrivano di solito tardive. Se c'è uno sciopero, coloro che hanno dichiarato lo sciopero vengono precettati. Se gli insegnanti vogliono bloccare gli scrutini, ci pensa l'onorevole Bassanini a far sì che sia tutto regolare. Verso il luogo dove ci stanno portando l'abbiamo capito tutti. Speriamo di risentirci. Buone giornate, buona vigilanza, buona ribellione. A risentirci tutti.